Eccoci qua alle 9:48 minuti primi, siete su Radio Onda Libera in questo venerdì 22 giugno 2018, l'appuntamento con Agora in Onda, rubrica di informazione giuridica e oggi anche concertistica, perché abbiamo fatto riascoltare un grande pezzo dei Pink Floyd, Money, che risale al 1973, siccome loro erano già innovativi all'epoca, è attualissima, poi non passa mai di moda. L'unica cosa che non avevano di innovazione è la cassa, perché questo rumore della cassa che sentite, con i soldi appunto, è stata registrata praticamente su piste diverse analogicamente. Oggi siamo sul digitale, dunque arriva la rete d'impresa, arriva praticamente l'innovazione sostenibile dell'imprenditoria addirittura, e lo facciamo quest'oggi in studio con il nostro avvocato Marco Vampieri. Buongiorno Marco. Buongiorno Stefano. E con la dottoressa Francesca Calenne, che io già conosco perché se non sbaglio è passata da queste parti a novembre. Esatto, buongiorno Stefano, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E infatti è entrata, ha detto me ne vado perché non riconosco i studi, ho trovato tutto cambiato. E beh, abbiamo avuto l'innovazione anche noi. Allora, l'innovazione sostenibile dell'imprenditoria e del sistema locale, la parola la lascio tutta a voi, siete in diretta anche sulla pagina Facebook, dunque se volete seguire questa puntata di Agora in Onda e fare le domande o avere delle spiegazioni su alcuni temi, potete farli tranquillamente, noi siamo qui, anzi loro sono qui. Stefano, buongiorno, ti ringrazio e ringrazio tutti i nostri radioascoltatori perché la 32esima puntata ancora ci seguono, e soprattutto la musica che ha introdotto la canzone Money dei Pink Floyd c'entra il tema di odierno, che è quella dell'innovazione sostenibile, dell'imprenditoria e del sistema locale. Quindi hai voluto coniugare con la musica quello che è il tema della puntata odierna, in cui parleremo, cercheremo di affrontare il tema dell'innovazione e del sostenibile del sistema locale, dell'imprenditoria locale, anche del sistema locale nel quale ci troviamo, quindi quali possono essere le opportunità. Ne avevamo parlato con la dottoressa Francesca Callenne, che saluto e do il benvenuto nuovamente in trasmissione, nella puntata del 17 novembre, in cui avevamo parlato del valore aggiunto per le imprese. Oggi invece ci concentreremo su quello che è il concetto di innovazione sociale e come può essere sviluppato sul nostro territorio anche grazie alle istituzioni presenti, di cui lo spazio attivo di Colleferro, che è diventato Lazio Innova e di cui ci parlerà tra poco Francesca, proprio perché vogliamo far conoscere a tutti i nostri radioascoltatori quali possono essere anche gli ausili attraverso le istituzioni presenti sul territorio che possono aiutare imprenditori, start-upper, aziende, chi ha un progetto di innovazione sociale, a coniugare l'idea con la concretezza di qualcosa che può essere sviluppato in un'impresa, e quindi Money, la possibilità anche di realizzare dei soldi attraverso un'idea. E questo è quello che è il focus odierno della puntata di Agora in Onda, e quindi do il benvenuto a Francesca Calenne, responsabile di Lazio Innova di Colleferro, e alla quale chiedo che cos'è la rete Spazi Attivi di Lazio Innova e qual è la vostra mission. Grazie Marco, grazie ancora anche a Radio Onda Libera per questo spazio che per la seconda volta, appunto a distanza di qualche mese, ci dà la possibilità di avere per presentare, rinnovare il focus sulle nostre attività. Allora, c'è una novità appunto rispetto alla puntata di novembre scorso. Bic Lazio è stata appunto assorbita da Lazio Innova, quindi la rete degli spazi attivi della Regione Lazio distribuiti nel territorio regionale sono oggi appartenenti al gruppo appunto di Lazio Innova, alla società Lazio Innova, esistente già da un po' di tempo. È la società della Regione Lazio che ha assorbito tutte le attività di supporto allo sviluppo della regione, compresa appunto la linea innovativa promossa ormai da circa 3 anni dalla rete degli spazi attivi. Innovazione che non è soltanto puntata sull'aspetto tecnologico e sull'alta innovazione, ma è innovazione, anche innovazione sociale, ed è diciamo il focus principale degli spazi attivi di Lazio Innova è proprio sull'innovazione, soprattutto sull'innovazione sociale. Perché? Perché innovazione sociale parte appunto da azioni che vengono dal basso, quindi con un forte coinvolgimento della comunità locale, dei sistemi locali. Sistemi locali che sono, come ricordavamo anche nella puntata di novembre, sono costituiti da un insieme di soggetti che si adoperano appunto per lo sviluppo della realtà locale, e quindi dalle istituzioni che vengono ricordate spesso in via principale, ma anche il sistema appunto delle start-up, il sistema delle imprese e il sistema dei talenti che sono collegati come dire alla valorizzazione poi del territorio, delle sue specializzazioni, delle sue peculiarità. Ti fermo un attimo per chiederti, quando parliamo di innovazione sociale, che cosa intendiamo, quindi per far capire anche ai radioascoltatori quali possono essere le potenzialità legate a questa terminologia che va comunque esplicitata, e quindi darci una definizione da questo punto di vista per riuscire a comprendere bene che cosa può essere l'innovazione sociale. Innovazione sociale è molto semplicemente, molto in sintesi, semplicemente poi in realtà applicarla e portarla avanti quotidianamente è ben più complesso ovviamente. Innovazione sociale è tutto ciò che appartiene al senso delle esigenze, dei bisogni espressi direttamente da una comunità, dove poi è la stessa comunità che si adopera con il suo sistema di competenze, con il suo sistema di valori, con le sue capacità, si adopera per mettere in atto azioni, iniziative, progetti, percorsi di sviluppo attorno a quelle esigenze. Quindi si parte dall'esigenza comunitaria, della collettività di un dato territorio, ma è la stessa comunità che costruisce insieme gli strumenti e le iniziative per darsi prospettive di sviluppo e di crescita. Quindi un processo partecipato attraverso la comunità locale, le reti associative che esistono, che sono sul territorio, e le istituzioni, quindi un discorso che viene fatto insieme dal basso verso l'alto. Esatto, dalla stessa comunità. Quindi lo sviluppo che si costruisce assieme attraverso percorsi di coprogettazione, puntando sulle intelligenze e i talenti della collettività. In sintesi, le persone vengono al centro delle iniziative e dei servizi. Quindi questo è diciamo quel concetto di innovazione sociale, quindi trasformare anche un processo ordinario in una nuova forma di cooperazione e di compartecipazione allo sviluppo. In questo ruolo lo spazio attivo di Colleferro cosa può come mette a disposizione la propria competenza e la propria, qual è il ruolo? Intanto ha, diciamo, richiamiamo velocemente una sua specializzazione primaria, non è, come dire, onnicomprensiva di tutte le iniziative che facciamo, ma è sicuramente caratterizzante. Lo spazio attivo di Colleferro si caratterizza appunto come centro di innovazione soprattutto sul tema del green, e quindi il sostegno, l'accompagnamento a tutti quei progetti innovativi che riguardano dall'economia circolare al risparmio energetico, la rigenerazione dei contesti urbani, più in generale il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, anche in ottica di rilancio dell'immagine di un territorio in termini appunto di vivibilità e senso di ospitalità del territorio stesso. Quindi ci ricolleghiamo alla canzone iniziale, no, dei Pink Floyd, Money. Compartecipazione ai progetti di sviluppo può portare anche ricadute benefiche in termini economici sul territorio, alle attività presenti e a quelle che potranno essere costituite, proprio in un'ottica di miglioramento e implementazione delle logiche territoriali che possano portare ad uno sviluppo anche in chiave turistica dei nostri territori, quindi attraverso la riqualificazione dei centri urbani, un miglioramento, come dicevi tu, della qualità della vita, che forse è uno dei benefit più importanti che abbiamo in un territorio metropolitano che non fa parte della grande conurbazione cittadina. Quindi da questo punto di vista i nostri piccoli centri possono essere motivo di sviluppo per un turismo lento, o quantomeno per un rilancio economico in chiave sostenibile. Ecco, questo concetto di sostenibilità lo abbiamo affrontato anche la settimana scorsa quando parlavamo di le auto del futuro, no? Quindi dal tuo punto di vista, l'abbiamo declinato la settimana scorsa con l'ingegnere Enrico Pagliari, responsabile ACI per quanto riguarda la mobilità. Ecco, dal tuo punto di vista invece, sostenibile per le azioni che fate, che cosa intendi? Ecco, perché il rilancio sostenibile del territorio è quello che vogliamo tutti, ma chiariamo che cosa e in quali implicazioni, lo hai già detto in parte, ma che cosa secondo te può essere comprensivo in questa definizione di sostenibile? Allora, sostenibilità viene tradizionalmente, il termine sostenibilità viene tradizionalmente associato solo all'aspetto prettamente ambientale e quindi tutto ciò che ha a che fare con la tutela delle risorse naturali piuttosto che la salvaguardia della qualità appunto dell'aria, dell'acqua, in generale delle risorse, no, che appartengono a un territorio a disposizione della collettività. Sostenibilità nel senso di innovazione sociale prende in realtà va a considerare un insieme di valori che sono appunto legati alla partecipazione delle persone ai programmi di sviluppo, il che significa che sono le persone che esprimono esigenze e costruiscono i loro percorsi di sviluppo secondo le proprie esigenze e secondo la propria visione di sviluppo, ovviamente in una modalità che è condivisa, quindi dove ci sono tutti i portatori di interesse, tutti gli interessi in gioco vengono in qualche modo presi, valutati e considerati. Quindi sostenibilità in senso anche sociale e poi ovviamente in senso economico. Quindi i progetti devono poter essere sviluppati, validati in ottica poi di sostenibilità nel lungo periodo, perché possano effettivamente garantirsi risorse economiche e finanziarie per... E concentriamoci adesso sulla parte dell'innovazione sostenibile. Per Francesca, poco prima della pubblicità, ci ha parlato della sostenibilità dal suo punto di vista, quindi come ne avevamo parlato anche la settimana scorsa, quindi abbiamo visto che sostenibilità non è soltanto sostenibilità ambientale nell'ambito dell'innovazione sociale e partecipazione attraverso i processi di sviluppo e soprattutto, e questo è il tema anche che avevamo affrontato la settimana scorsa, sostenibilità è anche dal punto di vista economico, quindi non si sta parlando territorio di sviluppo di questo, in questo caso del nostro territorio, un occhio attento anche alla sostenibilità economica e al lavoro che può fare Lazio Innova attraverso gli spazi attivi è proprio quello di consentire alle persone che vogliono cimentarsi con le proprie idee e intraprendere un'attività economica, se sono degli start-up o se sono delle imprese già costituite, è proprio quello di cercare di far quadrare il cerchio attraverso un'idea sostenibile che possa portare, come abbiamo visto, un'innovazione sociale. Allora, rientriamo subito sul tema e ti chiedo quindi, per essere innovativo, cosa deve fare un territorio? Perché di questo è un obiettivo importante che possiamo raggiungere, a cui dobbiamo tendere e soprattutto ci dobbiamo impegnare per rendere migliore il nostro luogo in cui viviamo. Utilizzo una parola che, diciamo, nell'esperienza che noi facciamo quotidianamente, secondo me racchiude il senso, poi il cuore, diciamo, di questo punto, diciamo, che tu richiami, Marco, che è la parola è la partecipazione, quindi essere attivi il più possibile, questo riguarda, diciamo, i soggetti, ciascuno per il proprio ruolo, quindi dalle istituzioni, come dicevamo prima, al mondo delle associazioni, il sistema delle imprese. Soprattutto perché il sistema delle imprese oggi è a maggior ragione importante proprio per non solo per poter consolidare il proprio patrimonio di prodotti, di competenze, di mercati acquisiti e quindi di competitività anche in chiave economica, ma sistema imprese è centrale anche per poter dare ulteriore forza al sistema delle nuove imprese, su cui appunto, come ricordavi bene tu prima, Lazio Innova con la rete, diciamo, spazi attivi in particolare sul territorio opera in modo particolare, in modo specifico. Partecipazione quindi che significa? Significa utilizzare gli spazi, le opportunità, nel caso per esempio degli spazi regionali, utilizzarli al meglio per costruire insieme servizi, ma anche iniziative, progetti che sono allineati, sono sviluppati in parallelo con quello che effettivamente poi serve al mondo delle imprese, al mondo delle start-up, al mondo delle associazioni e così via. Io cito velocemente alcune iniziative che effettivamente possono, diciamo, rappresentare concretamente questo approccio e questa esperienza. I percorsi di validazione di progetti di business innovativi su cui lavora appunto lo spazio attivo, in primis ne abbiamo fatto uno sull'innovazione sociale proprio a inizio 2018, che ha visto coinvolta anche questa radio, tra l'altro, e che ha visto la partecipazione attiva anche di soggetti come i sistemi bibliotecari, piuttosto che il terzo settore, diciamo così, quindi il mondo degli operatori del terzo settore. Ma in particolare, appunto, cito questo interessante connubio con Radio Onda Libera, perché appunto in quel caso abbiamo provato a ragionare e devo dire in parte ci siamo anche riusciti, visto come dire, la collaborazione che continua anche con questa radio. Abbiamo voluto spingere il tema della partecipazione attiva dei media locali nei messaggi, nelle azioni appunto di sviluppo e quindi di coinvolgimento della comunità locale attorno al tema dello sviluppo. Abbiamo fatto un'azione sempre di accompagnamento a progetti innovativi sul tema del turismo, in particolare nei Castelli Romani, in collaborazione con la DMO del Consorzio del Sistema Bibliotecario Castelli Romani, e lì sono emersi ben 11 progetti di sviluppo su cui stiamo continuando a lavorare. Ma il tema turismo in realtà lo allargheremo anche ad altri territori, quindi siamo partiti con un progetto pilota sui Castelli Romani, ma poi ci allargheremo anche nella sede di Albano, dove abbiamo incontrato un gruppo di imprese mature, imprese che operano da oltre 30 anni, e le abbiamo fatte incontrare con le nostre start-up. Quindi quello che stiamo provando a fare con un progetto che si chiama Contaminnoviamoci è appunto di sperimentare questa contaminazione tra il tradizionale, il nuovo, tra l'innovativo e imprese che invece operano su prodotti più tradizionali. E anche su questo appunto continueremo nelle prossime settimane con diversi incontri di approfondimento e di affiancamento. Infine, tema scuole, quindi lavoriamo anche molto sugli studenti. Un percorso innovativo che abbiamo già lanciato nel 2017, ma che consolideremo anche quest'anno, è la Summer School per giovani talenti, quindi i ragazzi tra i 16 e i 18 anni che vengono coinvolti spontaneamente, quindi oltre quella che è l'istituzione scolastica, quindi con una partecipazione. Il vostro ruolo è anche quello di mettere a sistema questa rete costituita da enti locali, imprese, studenti, perché una parte importante dello sviluppo del futuro passa anche attraverso la selezione, soprattutto la possibilità per i giovani studenti di potersi formare attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro, mettendo in rete il bagaglio culturale con l'esperienza che magari altri imprenditori hanno già messo in campo. Quindi in questo caso anche quello che avete fatto nella CNA dei Castelli, in collaborazione con la CNA dei Castelli Romani, è quello di mettere insieme esperienze di contaminazione tra imprese tradizionali e imprese che si affacciano nel mondo dell'innovazione. Quindi questo è il lavoro che fa sostanzialmente lo spazio attivo, è uno dei lavori che fa lo spazio attivo, perché diciamo diamo anche ai nostri radioascoltatori contezza di questo, cioè possono rivolgersi a voi per avere un supporto anche su come sviluppare, cioè una rete di un'idea di impresa, no? Quindi un ragazzo, un cittadino può venire da voi e chiedere consulenza su come sviluppare il proprio percorso imprenditoriale, giusto? Il percorso di accompagnamento è parallelamente è individuale, quindi viene fatto sullo specifico progetto, sullo specifico utente o gruppo di persone che si mettono insieme per fare un progetto di impresa assieme, e in parallelo quel progetto viene collegato a un sistema di altri soggetti che possono essere utili, e possono accelerare, possono aiutare ulteriormente lo sviluppo di quel singolo progetto. Così vediamo che le cose possono funzionare. No, lo dico perché magari c'è qualcuno che vorrebbe, anche dei nostri ascoltatori, che vorrebbe mettere in campo delle idee e magari può rivolgersi a voi per avere questa facilitazione. Dopodiché l'Azio Innova, attraverso lo spazio attivo, in questo caso di Colleferro, ma credo anche Zagarolo? Anche Zagarolo è in è in una fase avanzata di sviluppo dal punto di vista della struttura, è in fase di preparazione, diciamo così. In autunno molto probabilmente verrà inaugurato e sarà quindi un ulteriore punto di riferimento all'interno di questo sistema locale, assieme allo spazio attivo di Colleferro. Quindi nel sistema prenestino sarà Colleferro già la sede principale, poi ci sarà Zagarolo, che comunque aprirà da qui a breve. Però dicevamo, quindi Lazio Innova, attraverso gli spazi attivi, oltre all'attività di sostegno alle idee, propone dei bandi, delle chiamate, chiamiamo così, delle call in cui si può partecipare per i progetti che si vogliono portare avanti, che Lazio Innova porta avanti, ma soprattutto che mette in rete esperienze diverse. Quindi quali saranno le prossime e le principali iniziative che Spazio Attivo Colleferro, tu ci hai fatto una descrizione di quelle che sono state fatte nell'anno in corso, e quali saranno invece quelle, quindi diamo ai nostri radioascoltatori questa anteprima rispetto a quelle che saranno le attività che proporrete. Hai dato la possibilità di appunto evidenziare una cosa, Marco, che il percorso di partecipazione può essere appunto diretto, spontaneo, volontario da parte del singolo utente, e quindi può venire appunto da noi per ricevere un servizio di accompagnamento individuale, ma in parallelo lanciamo anche delle call, dei bandi, oltre che i bandi che Lazio Innova appunto nel contesto regionale e all'interno delle azioni che sviluppa con la Regione Lazio lancia in tema di anche di risorse finanziarie, perché una buona parte di bandi che Lazio Innova lancia ha appunto a che fare con programmi di sostegno finanziario sia alle start-up che a imprese più mature. Ma in questo caso specifico, quando parliamo di accompagnamento a progetti innovativi e di innovazione sociale, parliamo di call diciamo specifiche, di bandi specifici per fare diciamo così uno scouting, una raccolta di idee appunto dal territorio su tematiche specifiche. Allora, nei prossimi mesi, in realtà già in, diciamo in questo momento, noi abbiamo già lanciato altre due call molto interessanti. Ricordo il Sector Econ Innovation Lab, quindi una call che si rivolge a startup piuttosto che creativi, piuttosto che giovani designer o anche ricercatori o studenti universitari che vogliano proporci progetti innovativi, idee innovative nel campo appunto della sostenibilità ambientale. Quindi ricordo velocemente gli ambiti di riferimento: parliamo di ecodesign piuttosto che di bioedilizia e bioarchitettura, oppure interventi di tutela, per esempio a sostegno delle risorse idriche, come possono essere interventi di fitodepurazione delle acque, riutilizzo di acque reflue, gestione anche efficiente di reti idriche, oppure il tema del riuso e recupero di materie seconde, e quindi il tema, come dire, proprio dell'economia circolare un po' tutto tondo. Qui abbiamo anche partner importanti come un'industria, ricordavamo prima CNA Roma Castelli, il comune di Colleferro appunto ha concesso un patrocinio ad hoc, e poi Intesa San Paolo, quindi come partner finanziario, e infine tutto un sistema di piccole imprese del territorio ed enti di ricerca e dipartimenti universitari. Quindi questo è il senso appunto del sistema che si mette insieme per collaborare a sostegno della dell'innovazione del territorio. Dovrebbero essere presenti, dal mio punto di vista, anche gli enti locali, perché queste misure di sviluppo che riguardano l'economia circolare, come la chiamavi tu, dovrebbero vedere partecipe anche, questo magari è un auspicio e un invito che lancio magari agli amici sindaci del territorio, di partecipare attivamente, perché il tema del riuso, del riciclo, serve anche in quel problema che abbiamo importante, è quello dei rifiuti, e quindi riutilizzare le materie prime e seconde è sicuramente un aspetto che aiuta a migliorare anche la qualità ambientale dei nostri territori, in cui ovviamente attraverso, come dicevi tu, linee di sviluppo sostenibile, in questo caso ambientali, i temi del paesaggio, della bellezza, debbono essere al centro del motore di sviluppo di una ripresa dei nostri territori anche in chiave economica. In questo caso noi abbiamo il sistema di coinvolgimento, diciamo il meccanismo di coinvolgimento di questi partner è altrettanto aperto come appunto la chiamata che noi facciamo agli utenti. Quindi quando Lazio Innova lancia questo tipo di iniziative, prima di lanciarle costruisce attraverso un contatto diretto con diversi partner, costruisce percorsi appunto di ingaggio e di cooperazione. E questo è stato fatto anche con, viene fatto costantemente anche con le istituzioni locali. In questo caso specifico, l'unico soggetto che ci ha risposto appunto nei territori, parliamo di un'area territoriale di interesse che è quella di Colleferro, Ferentino, Latina, quindi in questo caso specifico parliamo di un'iniziativa che vede la collaborazione di 3 spazi attivi. Abbiamo coinvolto anche le istituzioni locali, l'unico che in questo momento ha risposto in modo forte e interessato è il Comune di Colleferro, ma noi continueremo comunque ovviamente su questa azione di chiamata verso le istituzioni locali, quindi continueremo comunque a coinvolgerli, a chiamarli ai tavoli di confronto su questo tipo di progettualità. Velocemente ricordo che questo sector ha una scadenza del 4 luglio ore 12 e ulteriori dettagli sono appunto consultabili sul sito di Lazio Innova, www.lazioinnova.it, oppure scrivendo una mail a colleferro@lazioinnova.it. L'altra iniziativa che avete in programma invece? L'altra iniziativa è un'iniziativa un pochino più particolare, anche se Lazio Innova, diciamo, gli spazi attivi già da 2 anni hanno maturato esperienze su questo tipo di iniziativa, di format. Abbiamo lanciato il 20 giugno una call che è sempre disponibile sul sito Lazio Innova per un hackathon che si chiama appunto Hackathon Episalus. Che cos'è un hackathon? Un hackathon è una maratona, una vera e propria maratona di progettazione, in realtà più correttamente di coprogettazione, nel corso della quale appunto dei team in realtà spontanei, perché si costruiscono nel momento in cui nasce, nel momento in cui parte l'hackathon, quindi la vera e propria maratona, questi team che sono spesso multidisciplinari, anzi meglio se sono multidisciplinari, si riuniscono appunto in un arco di tempo che è intensivo, che va dalle 24 alle 36 ore. Nel caso nostro si riuniranno nello spazio attivo di Colleferro il 7 e l'8 luglio, quindi in un fine settimana, per appunto coprogettare delle soluzioni innovative che sono di interesse del soggetto che propone l'hackathon. In questo caso l'hackathon l'abbiamo lanciato, Lazio Innova l'ha lanciato con una startup innovativa che si chiama Healthia e che opera appunto nel settore biomedicale, in particolare su soluzioni digitali per il biomedicale. La scadenza della call per partecipare all'hackathon è il 5 luglio ore 16. Quindi tempo fino al 5 luglio per quanto riguarda l'hackathon, tempo fino al 4 luglio per l'altra iniziativa, per il sector che hai lanciato poc'anzi. Quindi in questa puntata di Agora in Onda abbiamo voluto, e ti ringrazio per aver partecipato nuovamente in questa trasmissione, abbiamo voluto focalizzare il tema dello sviluppo del territorio attraverso l'innovazione sostenibile, quindi non soltanto delle imprese ma anche del territorio, perché è importante che parliamo dalle frequenze di Radio Onda Libera, che è una radio che spazia su tutta l'area prenestina e non solo, e quindi è importante far conoscere ai nostri radioascoltatori quali sono le potenzialità di sviluppo, che a mio avviso sono molteplici, ma che vanno implementate attraverso una rete che si compone di istituzioni, imprenditori e buone idee che possono lanciare e mettere in campo le persone, e quindi in questa rete unire tutti i soggetti aggregatori proprio per portare sviluppo su questo, su tutto il territorio dell'area metropolitana di Roma o a sud-est di Roma. E quindi su questo Radio Onda Libera è presente, la trasmissione Agora in Onda vuole essere al sostegno appunto delle buone iniziative, delle buone pratiche che possono essere locali, economiche e quindi di idee, soprattutto di sviluppo, e quindi da questo punto di vista noi abbiamo fatto il nostro in questa trasmissione odierna. Io Stefano ti lascio per i saluti e saluto invece tutti i nostri radioascoltatori augurando a tutti un buon fine settimana, e ringrazio di nuovo Francesca Calenne per essere stata ospite della trasmissione. Grazie a tutti e un saluto a tutti gli ascoltatori.